Spam rilevato, mi dice WhatsApp qua. Non mandateci il virus, mandateci perché sennò spam. Si blocca tutta la radio, quindi per piacere no. Però diamo il benvenuto. A chi diamo il benvenuto? Posso dirlo, un benvenuto corale? Lo puoi dire. Potevo, simpatico. Era veramente... Ormai l'hai detto. Era veramente tremenda. Comunque, un benvenuto corale al coro di... Periferia. Di periferia, un applauso. Eccoci. Applauditevi da soli, così si sente in quanti siete. Potete dire ciao, siete un air. Ciao. Eccoli, siete tantissimi, quasi tutte donne. Tantissime. Diretti da Maria Grazia Vincitorio. Grande Vincitorio, benvenuta. Che non, parla. Grazie. Sì, puoi sì, parlare, sì, certo. Sì. Poi sì, sì, sì. Sei in radio, sei in diretta radio. Si chiama qui. Radio Città Fujiko. Cocco spaziale. Una versione ridotta, anzi, prima di tutto ci scusiamo con quelli che abbiamo lasciato a casa. E li salutiamo. E li salutiamo caramente. Anche il bonghettaro che c'ha male la schiena, mi hanno detto. Sì. Mi dispiace. Sono tutti ad ascoltarci. Tutti ad ascoltarci. Quindi fanno l'impennata di ascolti di Cocco Spaziale stasera. E infatti. Cioè, proprio. In totale siete infatti 45, dicevi. No, 20. No, 25. Io pensavo 25 oltre voi. No, in totale okay. Sono 25. Quindi sì. Ne mancano poco meno di una decina. Dai. Abbiamo un saluto da Alberto perché ed Elena. Perché siamo bravi con i numeri oggi. Abbiamo un saluto da Alberto ed Elena e scrivono, potete mettere il pezzo elettronico che si chiama Pecorone? È una domanda a cori di periferia oppure è una domanda a cori spaziale? Non lo so, spaziale? È arrivato in questo momento. Marco ed Elena sono? No, Alberto ed Elena. Alberto ed Elena. Sono amici tuoi? No, non li conosco. Neanche amici. Però miei. Specificate se volete mettere questo pezzo. Il pezzo Pecorone non ce l'abbiamo. Spaziale, no, anche perché per oggi non abbiamo pezzi da mettere. Cioè, volendo lo possiamo fare se loro sono stanchi. Però in realtà abbiamo qui un coro e vogliamo che il coro... Che scorreggi. Volevo dire correggino, poi mi sono resa conto che sono veramente male. Esatto. Stefano. Perché abbiamo un coro a Cocco Spaziale? Dicelo tu, Maria Chiara, raccontaci anche questo nuovo nome. Maria Grazia, va bene, buonanotte. E raccontaci anche questo nuovo nome di cori di periferia. Ma Massiella possiamo salutare oppure? Sì, dai, possiamo dire che c'è. Perché sta criticando tutti. No, perché in realtà anche lei era nel coro. È la fotografa. A parte lei... essere fotografa, partecipa allora Massiella... anche delle prove. Ah, ok. Sì, mancheranno delle voci allora. Raccontaci sì. Un po' questo nome, cori di periferia. Sì, coro di periferia. Coro di periferia. Che è appena cambiato perché prima era un... Coro multietnico di periferia. Sì, abbiamo deciso di chiamarlo da adesso in poi solo coro di periferia perché la parola etnia non ci piace più tanto usarla e vogliamo semplicemente essere un gruppo che si scambia culture, in cui ci sia uno scambio di culture. E quindi la periferia è un luogo di passaggio, no? Perché elimina certo. Tutti i confini, no? E quindi nel nostro coro il messaggio principale che noi vogliamo dare anche con il nostro nome, coro di periferia, è che non ci deve essere un confine, ma soltanto deve essere un punto di passaggio. Anche ci i nostri coristi passano, no? Passa un corista, ci lascia una canzone, sta con noi due mesi, poi viaggia, ritorna in Cina e quindi ci ha lasciato il pezzo. E infatti dicevi che i pezzi che state portando stasera sono pezzi che arrivano da coristi attuali o ex coristi del coro di periferia che hanno lasciato la loro testimonianza anche o parte della loro eco. Sì, sì, certo. Vogliamo subito ascoltare un pezzo, che dici? Un pezzo? Sì, siamo loro. Qui apposta. Quali? Aspetta un attimo. Secondo me prima di loro dobbiamo ascoltare il nostro corista preferito. Che il nostro... secondo me adesso che lo ascolterete lo vorrete nel vostro coro. Infatti, anzi, Marco, se ci sei e sei in periferia, vieni. Aspetta, che devo anche controllare di avere il volume di questa cosa. Ma eccolo qua, Marco Roma per voi. Forse, aspetta. Ci siamo. Buongiorno. Se quest'oggi ti sveglierai con tutto il desiderio di vivere così, perché tu ce l'hai messa tutta, perché tu sei il vulcano d'amore e d'allegria, e io sono Marco Roma. Buongiorno! Buongiorno Marco! Un applauso a Marco Roma, ci sta, eh? Scusate, io lo prenderei, l'audizione l'ha passata, vero? Molto bene, Marco Roma è sempre un grande piacere. E dunque, siete pronti? Siete pronti? Siete pronto? Siamo pronti. Siete pronti? Vai, Marcel, canta anche tu. Ok. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky that I look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Whatever you're in trouble, won't you stand? Applaudo io da solo. Grandi. Grande. Bellissimo. E questo pezzo come si chiamava? Scusa. Stavo anche per risponderti, ti rendi conto? Grande. Abbiamo iniziato con uno facile, dai. Conosciuto. Facile, conosciuto. E dunque da quanto tempo esistete? A noi nasciamo nel 2019. Dicevo prima che abbiamo cominciato in tre. Abbiamo qui i tre iniziali, Serena, Ashan ed Emilia, nel 2019, perché abbiamo partecipato con l'associazione di cui facciamo parte, che è l'associazione Jam Session, una scuola di musica di Bologna. Mm-hmm. Ha vinto un bando per il quartiere Navile, che è insomma un bando di promozione della cultura e dell'integrazione soprattutto, quindi abbiamo cominciato in Corticella, ai laghetti di Corticella, e facevamo prove lì con loro tre, e con i bambini che c'erano al parco. C'erano questi bambini che d'estate giocavano, poi il progetto purtroppo si è dovuto concludere in quei tre mesi, però noi abbiamo pensato di continuare a cantare, quindi abbiamo portato il progetto nella scuola in Jam Session, e da lì pian piano si è aggiunta gente. Poi purtroppo è arrivato il Covid. Cavoli. Sì. Quindi eravamo appena nati, proprio facevamo prove da 2-3 mesi, è arrivato il Covid, ci ha stoppati, poi però l'anno successivo, nel 2021, anche se eravamo ancora in pandemia, abbiamo deciso di vederci anche online, e quindi abbiamo cominciato a pensare ai brani che volevamo fare, abbiamo scritto dei testi, così ci siamo tenuti in contatto. Wow, avete anche scritto dei testi vostri? Sì, abbiamo scritto dei testi su una musica che già esisteva, però insomma, siccome avevamo tante nazionalità diverse, avevamo una ragazza moldava, c'è Ashan che è dello Sri Lanka, Nella che è inglese, un sacco di il paese rappresenta il record di nazionalità. Aspetta, che hai, ti si è spento. Io. Scusami, eccomi. Ah, ecco. Il record di nazionalità, a quanto siete arrivati? Adesso ce l'abbiamo rappresentate 2, 3, 4. Puoi anche mentire, 5-6. No, ma la verità, 5-6. Perché, no, possiamo dirlo, è difficile coinvolgere anche la gente straniera. Anche per questo. Per i testi? No, non per i testi, perché nonostante la nostra sia una realtà totalmente gratuita, noi un coro che fa prove gratuite. Perché non hanno tempo di caffeggiare. Esatto. No, è vero, è vero. Cioè, magari mettiamo un puntino anche su questo aspetto. Nella realtà in cui viviamo, a che ora fate le prove? Tipo alle 9 del lunedì? Dalle 7 alle 9 del mercoledì. Ah, ok, sì. 19:21. Ah, ok, ok. Sì, sì, di sera. Sabato di mattina. 19:21. Sarebbe però un'idea. Ci poteva stare. Però è vero, molta gente, soprattutto gente straniera, lavora, certo. Fa dei lavori anche serali, ah, sì. Quindi è difficile coinvolgerli, e poi perché insomma è difficile coinvolgere la gente nella partecipazione di un'attività così come il coro. Molti hanno paura di cantare, il canto è una cosa molto intima, certo. E da quant'è che tu sei direttrice di coro? Ah, io ho cominciato, avevo diretto un coro nel mio paese in Puglia di giovani ragazzi per qualche anno e poi con loro. Quindi, grande. Sì, questa passione ce l'ho da penso una decina d'anni. Sì, sì, è il tuo, infatti. Però cioè, mi piace un sacco e quindi. Bello. Poi noi facciamo prove anche se siamo. All'inizio eravamo 3, poi siamo diventati 5, poi 6. Abbiamo sempre fatto prove e non ne abbiamo mai saltata una perché il bello è stare insieme. Anche integratissimi comunque tutte le voci, cioè la cosa che mi affascina dei cori è che quando guardi queste persone, questo gruppo di persone che state cantando, non riesco a capire di chi sia la voce, no? Cioè è presente questo effetto coro che è bellissimo perché vuol dire che si integra completamente come se provaste da anni lo stesso pezzo, no? Sì, infatti il bello del, cioè quello che diciamo sempre a prove, non importa se la voce la fa uno, poi la fa l'altro, se si scambiano, perché tanto certo. La cosa principale del coro, come dico sempre, è respirare insieme, non cantare, è respirare insieme. Quindi, pura poesia. Sì. Ma possiamo avere i nomi di tutti i partecipanti? Certo. Vi volete presentare? Facciamo usare la loro voce o li presento io? Come vuoi tu, come preferiscono loro. La loro voce, dai, la voce del coro. Donatella. E anche la professione, voglio. No, scherzo. Cantante, alla destra. Insegnante di musica. Emilia, educatrice. Maria, insegnante. Martina, tecnico di laboratorio. Leonardo, studente. Sara, insegnante. Ashan, studente. Nella, insegnante di inglese. Serena, impiegata. Daniela, insegnante. Tutti insegnanti, wow. Tutti insegnanti. Wow. No, e la mia era una battuta comunque. Però è bello, no, sapere che ci sono che casa, ci sono un ex tutte, ginecologa. No, ma infatti se vuoi anche ci sono anche altre professioni. Se vuoi fare i nomi di tutti quelli che mancano, li ascoltiamo anche loro. Se ho paura di dimenticarmi qualcuno. Isabelle, Camilla, Tom. Sì, abbiamo il gruppo WhatsApp così non ci dimentichiamo di nessuno. Nessuno. Esatto. Ilaria, Titu, Mick, Carmela, Claudia, Claudio, Diana, Nicolas, Maya, anche lei è serba, e poi Elisabetta, Massiel. Filippo, Massiel, Federica, ne abbiamo diversi, Sara, Isabel, Mafe, Gemma, basta, penso di aver detto tutti, tanti. Sono tanti. Sì, tu sì, continui sì, a spegnere sì. Il microfono, non ho capito perché. Non lo so, perché mi emoziono mentre cantano e quindi cerco ma di spegnere. Ma vuoi unirti al coro, no. Tu? Lo vedo. Ho paura di canticchiare io un po' privatamente. Ho voglia di unirmi a questo esatto, coro. Era quello che ti volevo dire. Ah. Tu vorresti unirti? Vorrei un po' unirmi a questo coro, sì. Dai, ci starebbe. Io non ho sentito Stefano, infatti, tra il gruppone. Poi Stefano è una camicia, posso dirlo. D'accordo, siamo in diretta. Troppo figa. Te la sei appena messa, molto bella. Sarà sì, proprio no, perché prima mi ero spogliato. Perché volevo far vedere a qualcuno che avevi quella t-shirt. Esatto, a Penelope Damiano, che ah, la okay. Saluto. Grande. Ciao. E Penelope anche l'ha fatta, dovrebbe l'ha fatta lei. Giusto, anche Penelope dovrebbe unirsi al coro, direi. È un po' a Torino lei. È un po' lontano. E questi cori fanno anche delle, cioè voi fate degli show tipo? Degli... Facciamo delle performance. Cioè, fanno strip poker quando finiscono. Ok, no, dico, cantate in qualche luogo pubblico. Sì, certo. Allora, noi fin dal principio avete una tournée. No, fin dal principio cioè, abbiamo sempre fatto delle prove aperte, quindi ci piace il fatto di cantare in giro. A dicembre abbiamo cantato sotto i portici di Santo Stefano per un, insomma, un progetto. Ah, certo, è vero comune, che l'abbiamo anche menzionato. Esatto, che si chiama Nuovi Echi per Nuovi Orizzonti. È un progetto che andrà avanti anche il prossimo anno. Poi cantiamo al Salus Space, che è uno spazio bellissimo, un centro culturale nel quartiere Savena, dove c'è una casa anche per famiglie straniere, e c'è ancora una residenza per studenti. E ci torneremo, il coro non lo sa, glielo dico adesso in diretta radio, okay. Il 1 aprile. Che è tipo dopo domani. Queste sono le prove generali. Ci hanno rinvitato, cioè, ho partecipato già l'anno scorso, quindi noi dove ci chiamano andiamo. Prediligiamo naturalmente i luoghi inclusivi, perché noi siamo un coro inclusivo. Non è mai stato cacciato nessuno dal nostro coro finora. E poi possiamo dire che state avviando, avete appena avviato, è in atto una super raccolta fondi. Esatto, la raccolta fondi alla quale il coro partecipa, anche perché parte dell'associazione Jam Session, si chiama Aulos, ed è una raccolta fondi che è partita 2 mesi fa e andrà avanti fino al 31 agosto. La raccolta fondi della scuola Jam Session per comprare strumenti per disabili gravi, strumenti musicali. Abbiamo anche dei saluti, c'è scritto qui: ciao Nella, una super corista del coro di periferia, ma anche la mia super mamma. Yeah! Wow, tua figlia. Che carino, super mamma. Che Sara. Dolce. Ciao Sara. Ciao Sara. Ciao Sara. Cosa quindi, facciamo? E quindi raccolta fondi, dove la troviamo? Mettiamo www.asjamsession.it. E avete tempo fino al 31 di agosto. Like ASS. Dai, oggi va male. Vabbè, la scriviamo così. ASS, scusa. ASS come associazione. Esatto. Oh, che ti posso dire? Dato me lo scrivo. Jam Session. No, visto che tutte sì, le altre donate, parole sono donate. In perché noi vogliamo far fare musica a tutti, cantare, suonare, tutti, nessuno escluso. Si compreranno strumenti per disabili gravi. Infatti il motto dell'associazione è Music for Everyone. Grande. Bellissimo, bellissimo. E adesso ci deliziate con un Soy Pan. Soy Pan, Soy Pas, Soy Mas, che è un canto cileno di Mercedes Sosa. Olé. Cosas mundanas, fui niño cuna teta pecho manta, mas miedo cuco grito llanto rasa. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando esta alma sola llora. Alma sola llora. Hay que sacarlo todo fuera. Una primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablan mirándose a los ojos. Nuevas, nuevas. sete da un sete chita, igual che con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, una primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Ahora mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro sean cosas nuevas, nuevas, nuevas. Bravi. Bravos. Bravissimi. Erano emozionatissimi a fare questa, perché l'abbiamo studiato un sacco ed è un pezzo molto difficile perché è pieno di dissonanze, però che piace a tutti, quindi lo dobbiamo fare. Grandi. No, è venuta bene. Io da questa parte del vetro ho apprezzato. Anche perché così si impara lo spagnolo, no? Esatto. Vero? Cioè lo sapevate tutti lo spagnolo? No. È la cosa bella di quando facciamo le prove, perché impariamo, sono quasi tutti canti stranieri, no? È lingua straniera. Cioè, certo. Lingua non italiana. Certo. Straniera per noi. Certo. Ma magari lo spagnolo non è straniero per Maciel, per esempio. Per esempio. Quindi in effetti utilizziamo poco questa parola straniero, perché è sempre molto soggettiva come parola, certo. No? Dipende da chi la dice. Certo. E il bello è che ogni brano ci viene portato dal corista, e quindi il corista chi l'ha portato? Ci spiega. Questo te l'ha portato Maciel. Ok, che infatti non ha cantato. No, lei ci porta solo le però cose ha condotto, però no, però ha condotto tutte le prove, dai. Esatto. Stava cantando anche lei. Sì, quindi il bello è che poi il corista che ce lo porta ci insegna anche come si canta. Infatti poi. Bello, molto. Il vostro pezzo preferito che avete fatto? Ormai avrete tantissimi. Per me questo. Soy pan, che non l'avevo mai sentita. E certo. Mi piace tantissimo, sì. Non la canto benissimo, però. Sì. No, è bello anche perché poi avete avuto modo di scoprire, sì, anche. Voi la capite, cioè capite quello che state cantando? Sì. Ce la facciamo spiegare sempre da lui. Esatto. Da chi ci porta il brano ci spiega da dove viene, cosa vuol dire bellissimo. Il testo. E questo testo è molto molto bello, perché molto spirituale. Una caratteristica del nostro coro, per esempio, è quella che non facciamo canzoni religiose. Okay. O che rimandino un tipo di religione. Quindi questa però è bella perché è spirituale, pur non rifacendosi a nessun dio, nessuna dea, certo. Niente. Quindi, insomma, è una caratteristica che cerchiamo. Parla dell'umanità, ecco. Praticamente. Sì. Bello, bellissimo, anche perché i cori effettivamente sono spesso ricondotti a qualcosa di religioso, no? C'erano i cori delle messe, i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, no. Il free jazz. Sono Roberta Giallo. E questo è Coxo Spaziale. Emiliaromagna.it. Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale, Coxo Spaziale. State andando benissimo. Bellissimo. Continuate. Sei pronto a registrare il jingle? E questo è il Coxo Spaziale. Ok, un'altra volta. Ancora. Siamo il coro di periferia. E questo è il Coxo Spaziale. Esatto, andate giù. No, fallo pure tu. Un'altra? Giù, sì, lo riproviamo. Dai. Siamo il coro di periferia e questo è il Coxo Spaziale. Bellissima. Coxo Spaziale. Posto? Sì. Un'altra o l'ultima? L'ultima, dai, l'ultima. No, è che mi piace. Siamo il coro di periferia e questo è il Coxo Spaziale. Bellissimo. Bello. Grande. Così abbiamo assistito anche a una prova live. Infatti. Cioè. Bellissima sta cosa. E se avevate dei dubbi, siamo con il coro di periferia a Coxo Spaziale. E questo è Coxo Spaziale. E adesso è ora dei. L'angolo della menzione. La comincio io perché. Io non ho il cellulare. Perché tu non hai il cellulare e poi ne ho aggiunta una di quelle rispetto a quelle che ti avevo spedito. Perché giovedì 23 marzo alle ore 19 presso adiacenze abbiamo il finissage della mostra Pedro e Talk con l'artista Carolina Cappelli. A cura naturalmente di Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi di adiacenze. E questo è in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna, giovedì 23 marzo alle 19. E quindi proseguo io con sabato 25 marzo dalle ore 15 alle ore 18 gli spazi espositivi dell'Esprit Nouveau ospiteranno un dialogo tra Giulia Simi, ricercatrice, autrice di Jonas Mekas, Cinema e Vita, ETS 2022, Vincenzo Estremo, curatore del progetto di ricerca vincitore dell'Italian Council to Get Out of the Deep Black Night, che parte dalla figura di Mekas per indagare la complessità delle relazioni tra cinema e altre arti. Paolo Simoni, direttore della Home Movies, Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, e Francesco Urbano Ragazzi, curatore della mostra. E direi che passo direttamente, bisogna che io citi qualcuno di queste righe. Citiamo che ci sarà anche Emidio Clementi e Massimo Carozzi che dunque cos'è che fanno? 100 Sound Fragments for Jonas Mekas, l'installazione sonora ambientale appunto realizzata da Massimo Carozzi con i pezzi. Un mix di suoni d'archivio e di passaggi dal diario di Mekas, I Had Nowhere to Go, letti da Emidio Clementi e selezionati e tradotti da Giulia Simi, per cui è così. E, sarà replicato poi domenica 26 per l'ultimo giorno della mostra, aperta dalle ore 15 alle 18. Con la collaborazione della musicista Laura Agnusdei. Questo è al padiglione Esprit Nouveau in piazza Costituzione 11 a Bologna. Leggi anche questo. E sempre sabato 25 marzo alle ore 17 il segno traccia del nostro vissuto. Finissage della mostra incontro con Greta Schödel e Silvia Evangelisti, che salutiamo, al Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38 a Bologna. Sempre sabato invece dalle 20 Sita, Alessia Tondo in concerto. A quasi due anni dall'uscita dell'apprezzato debutto Sita, Alessia è tornata sul palco con una serie di date legate al suo primo album ma anche proiettate al futuro. Dopo un fitto mese di marzo, aprile sarà inaugurato con due progetti speciali a Berlino di respiro internazionale di cui presto vi verrà data notizia. L'apertura è alle ore 20, l'inizio del concerto è alle 22, l'ingresso è 15 euro più tessera ARCI e questo è al Mercato Sonato in via Tartini 3 a Bologna. Basta. E voi invece cosa fate? Cosa fate sabato prossimo? Cosa dovete fare voi sabato? Dove andate sabato sera? Adesso vi interpello uno a uno. Avete ascoltato tutti gli appuntamenti che questa Bologna offre? Perché devo dire che comunque va a intermittenza un po'. Gli opening di sabato sono parecchi, no? E danno anche il benvenuto alla primavera. In realtà sono due finissage. Vabbè, non comunque, sei stata attenta. Era sabato. Era 25. È tutto sabato, a parte adiacenze giovedì, è tutto sabato. Sì, no, devo dire che vabbè, le mostre sono un po' così. È sempre tutto insieme. E direi che anche il 25 marzo tu hai ricordato che domani scatta la primavera. È vero, perché domani è il 21, ovvero stanotte scatta la primavera. Ti sei preparato? No, il coro di periferia è preparato per un'altra canzone di primavera. Sì, in realtà la canzone cinese che facciamo, Moliwa, parla del gelsomino. Che bello. Di un fiore, più primavera di quello non Fantastico. C'è. Fantastico. Cambiamo la scaletta, prima! Wow. Cambiamo la scaletta. Facciamo prima allora un brano primaverino. Ah, vi spostate anche sì. Per questo. Sì, sì, allora noi cerchiamo di imparare un po' tutti le voci, oggi lo dicevo. Perché c'è bello. Necessità a volte che qualche contralto vada nei soprani, qualche soprano vada nel contralto. Che bello. Qualche tenore venga sostenuto da una donna. Quindi bellissimo. Siamo un po' liberi, un po' fluidi anche nel coro. Grande, ottimo. E quindi questo pezzo ce lo dici tu in cinese? Sì. Sì, questo pezzo, oddio, il mio cinese non è fluido. Abbiamo un ragazzo che studia cinese, ma possiamo far dire a lui. Sì. Vai, vieni, forza, sì. Leo, dici come si chiama. Ormai, come si dice? Ormai è andata. Sei on air. Sì. Sei venuto in radio per recitare questo pezzo. Ti alzo la musica di sottofondo. Oggi era il tuo video. Non essere nel... Si chiama Molly Hua. Non era così difficile. un applauso. Grande, grande, grandissimo. Wow, questa canzone è la mia preferita, posso dire. Cioè, me la vorrei ascoltare, me la vorrei mettere come sveglia la mattina. E adesso so che parla di Gelsomino. Io invece volevo salutare la Pao dei Salva Ciclisti che ci sta ascoltando. Ciao. Ciao. Ciao. Io ho ricevuto un messaggio che dice coro pauroso, quindi vi fa gran complimenti. Grazie. Invece non abbiamo Gifo stasera. Si è spaventato, c'era troppa gente. Ha detto coro, troppe persone. Infatti. A chi scrivo, non si sa. Chissà. E questo pezzo, raccontaci chi ve l'ha portato, se è ancora qui nel vostro coro, se è ripartito, ripartita. Questa canzone ce l'ha portata nel 2019 proprio, una ragazza cinese, violoncellista, si chiama Yin. Ci ha proposto subito questo pezzo appena mi ha detto che volevamo fare un canto che provenisse dalla Cina, ce l'ha insegnato naturalmente. Io poi ho cercato un po' la parte, però poi insieme abbiamo costruito l'arrangiamento, perché i pezzi che facciamo li arrangiamo insieme molto spesso. A volte prendiamo degli arrangiamenti, ma finora, per esempio, quelli che abbiamo fatto li abbiamo arrangiati noi insieme. Che arrangiati significa che avete fatto voi la musica, giusto? Le voci. Rimodulato le voci. Ok, certo. Il ritmo. Esiste già una melodia di okay, base, perfetto, che sono pezzi conosciuti. Sì. Però le voci le avete. Proprio in questo brano non c'era della polifonia, è un brano che viene cantato sempre da una persona. Esatto. E certo. Quindi monodico, quindi noi l'abbiamo reso invece polifonico, abbiamo messo almeno la possibilità. Che non è, non deve essere canti. Facile, no? Vabbè, no, tu sei una musicista. Sì, alcuni li faccio io. Io sì, ho fatto il conservatorio e sono una pianista. Ok. Ho avuto sempre questa passione della direzione in generale. Ti piace poi di coro invece capo. Tanto. No, non è vero, lo diciamo sempre nel nostro coro. A volte ho cantato anche, non li ho diretti, stavo qui a cantare con loro. Abbiamo fatto delle serate così. Difficile? Sì. Senza? Sì, sì, perché comunque ti fa sentire più tranquillo, ti fa sentire più al sicuro. No, dagli attacchi. se no saremmo stonati. Ah, ah, certo. Grande, grande. No, perché in effetti anche rimanere, in tune, intonati, non è una passeggiata. Sì, poi la maggior parte dei pezzi, come avete visto, non è perché siamo in radio, cioè sì, abbiamo a volte il percussionista che ci accompagna, però li facciamo senza strumenti. Ah, certo. Quindi quasi tutto a cappella, al massimo abbiamo delle percussioni. Wow, bellissimo, bellissimo. E anche pronuncia, io non so il cinese, però mi sembra una pronuncia, cioè, ineccepibile. Se l'avessi ascoltata su Radio Città Fujiko lunedì sera durante Cox Spaziale, avrei pensato wow Stefano ha messo anche il cinese. Sì, no, Stefano ha messo un pezzo cinese, che bomba. Io tu non c'eri, ma io una volta ho fatto una puntata da Shanghai. Vabbè, fantastico. con appunto dei gran cinesi ubriachi che cantavano. No, vabbè, bellissimo. Cosa dici? Riusciamo a fare un altro pezzo? Io francese? Voglio sentire. No, io voglio sentire Please Me. Posso sentire? Ah, va bene, dai. Sono Please Me. Possiamo fare Please Me, vai, ritorna sì. al tuo posto. No, perché poi il rischio è che non abbiamo abbastanza tempo per farla e non potevo non avere Please Me. Sì, anche loro sono carichissimi per fare Please Me. Cioè, che è una canzone per me, no? Please Me. Dum dum ri ri ri ri ri ri dum dum ri ri ri ri ri ri ri dum dum. Last night I said these words to my girl. Do do do do do dum dum. I know you never even tried, girl. Dum do do do do dum. Come on, come on. Come on, come on, come on, please me, oh yeah, like I please you. Dum-dum. You don't need me to show the way, love. Do-do-do-do-do-dum-dum. Why do I always have to say love? Dum dum dum dum dum dum. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please me, oh yeah, like I please you. Do do do do do do do do do do do do do. Dum-dum. Last night I said these words to my girl. Do-do-do-do-do-dum-dum. I know you never even tried, girl. Dum-do-do-do-do-dum. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Oh yeah, like I please you. Wow, bravi. Però non ho capito una cosa, l'unica che sa l'inglese gli fai fare dum dum. No, mi sembravano tutti con la pronuncia perfetta, dai. Perfettissima. No, infatti lei si rimprovera, te lo credo, che si rimprovera. Mi sembra giusto. Come on, come on. Appunto. Si arrabbia. Giusto. Allora, devo dire che noi durante le prove ci divertiamo davvero un sacco. A volte non vogliamo andare via. Io, basta ragazzi, sono le 9. Le frustate che vedo, le cicatrici che vedo sui soprani. No, sto scherzando. Ma si beve pure in questo coro? Sì, si beve, allora, si mangia, allora facciamo di tutto. Esatto. Allora non vengo a fare. Cosa sarei? Un coso? Soprano. Un soprano, no? Un tenore. Un baritono. Un tenore. No, sei un tenore. Basta. Non so, è un po' tipo di che segno sei. Esatto. Esatto. Sono Capricorno ascendente. Io sono baritono ascendente tenore, tu. Io sono una violoncellista dentro. Esatto. E le disposizioni, raccontaci, com'è che metti tipo i tenori? No. Allora, in ordine di sì, io metto quante personalità, quanti segni ci sono? Per adesso abbiamo tre voci, però poi dipende dal pezzo. Principalmente abbiamo contralti, tenori e soprani, e i bassi quando ce li ho. I bassi, non so se lo sapete, ma nei cori sono molto rari. Sì, però no, a volte, non so, c'è il soprano che ha due voci, quindi è soprano, mezzo soprano, poi c'è il tenore, il contralto, dipende un pochino dal brano. Questo per esempio era tre voci, avevamo soprano 1, soprano 2 e contralto. Okay. Ma i bassi quanto arrivano in alto a cantare? Arrivano poco. Ok. Perché i bassi sono delle voci molto delicate, cioè nel senso fanno fatica anche a intonarsi a volte con il resto, però sono fondamentali. Certo. Un po' come i capricorni. Esatto. Cioè la stessa cosa, alla fine andiamo sempre lì. E invece averli in centro, a destra o a sinistra, è per una questione di politica. Cioè, metti quelli di destra a destra. Beh, l'ho deciso io, cioè non scherzo. Però a destra abbiamo i contralti e i bassi. Di solito metti vicino le voci basse e poi dall'altra parte le voci più alte, quindi tenori e soprani. Il tenore è la voce più alta degli uomini, il soprano è la voce più alta delle donne. E così i bassi maschile e certo. Contralti. E c'è una persona che riesce a fare tutto? Tipo beh, loro si scambiano molto, molto spesso, tranne magari in Serena, Daniela e Nella, che hanno delle voci molto scure. Infatti a volte non le chiamo nemmeno contralti, non diamo una definizione, voci scure e voci chiare. E qua già mi sembra parlare di vino. Le depresse, no. Le depresse della situazione. No, è una voce difficilissima, la voce del contralto, però è fondamentale per creare l'armonia. Facci due tonalità, dai, facci un contralto e un soprano. Tipo un contralto. Vai. Contralto canta. Way love. Questa è una voce certo. Da contralto. Sì. Mentre suona. Way love. Hai capito? Un altro mondo. Esatto. Un altro mondo. Sì. Però c'è qualcuno che canta. Come fate voi tenori? Way love. È un po' lo gigolo, il tenore è lo gigolo del coro. Bello. Cosa dice? E poi c'è qualcuno che cambia. Ci cantate? Tipo Emilia, Maria, una voce che ha un'estensione molto ampia, quindi può fare cambiano. Tutto come Britney Spears. Sì. Ma ogni tanto le fate delle canzonette cretinette per divertirsi. Sì, certo. Abbiamo cantato Oops, I Did It Again, tipo. No, degli Abba, abbiamo cantato Dancing Queen a volte. Io quella voglio, possiamo avere Dancing Queen. Dai, scherzo, fateci. Solo che poi cerchiamo di rispettare un attimo. Fateci quello che vi pare. Francese. Facciamo una canzone francese che ci ha portato Isabelle, che salutiamo. Isabelle, una signora. Isabelle. Sì, ce l'ha portata Nella e anche Titu. Ah, vero, Titu. No, ce l'ha portata Titu. Però Isabelle naturalmente la conosceva perché lei è francese. Titu è un ragazzo francese vissuto in Germania. Vabbè, comunque ci ha portato questo pezzo. Molto, molto bello. No, francese. Poi avevamo, è vero, un ragazzo belga che era qui in Erasmus. E poi l'avete. No, proprio poveretto. No, era impegnato perché stava mettendo su un cortometraggio e quindi ha detto per il momento non riesco più a venire. E lui è un basso. No. Ma lui no, è un tenore, è una voce molto bella. Chi è il basso? Tom. Però è un baritono, non è un vero e proprio basso. I bassi sono davvero difficili. Cioè, Tom è... Titu è un basso. Titu, okay. Che non c'è oggi, lui è un Titu, basso. Titu, mandaci un vocale esatto. Che manderemo in onda il prossimo lunedì a Cox Spaziale con un'intonazione bassa, di modo da darci un po'. Dici Cox Spaziale in tono basso. E invece Tom, puoi fare il tom-tom. Era peggio della mia battuta sul saluto corale, veramente. Dai che sta finendo il tempo. Ok. Posso farlo io? È sì. One. Posso dire è one, sì. And two, and one, two, three. Washington chemin, gamin s'oublie et gare, donne-leur la main pour les ménerves d'autres lendemains. La main pour les ménerves d'autres lendemains. Sans au cœur de la nuit, donne d'espoir de de gloire, sentier de gloire. Mon agent fantôme, toi vie oubliée, face où lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Brillez, effacez une lumière dorée brille sans fin. Au creux de la nuit, l'ombre d'espoir de la vie. Sentier de gloire, sentier de gloire. Il est E, il est E, il est I, il est E, il est E, il est E, il est E, il est E, il est E, il est I, il est E, il est E, il est E, il est E, il est E. Vois sur ton chemin. Gammes oubliées, égarées, donne-leur la main pour les ménèves d'autres lendemains. La main pour les ménèves d'autres lendemains. Sans le cœur de la nuit, l'ombre d'espoir, l'ordre de la vie. I have to say, their French is much better than their English. Scherzo, bravi, bravo. Eri proprio una rock star, Stefano, con questa uscita finale della canzone. Sembrava proprio tipo il commento a fine disco, è presente? Esatto. Beh, adesso quando uscirà il disco mi metteranno nei crediti. Esatto. Dai, e dunque, primo aprile, prossimo concerto? Cioè, sì. Prossima uscita pubblica. Prossima uscita pubblica al Salus Space, questo centro sociale molto molto, molto bello. Di giorno, però. Di giorno. Alle 12:30. Possiamo già chiedere chi c'è e chi non c'è. Sì, no, ci devono essere. Però loro piace quel posto. Il primo aprile è un sabato. È sabato. È un sabato. A che ora che vengo? 12:30. Cioè 12:30 ora di pranzo? Sì, ma lì si mangia anche, ah, okay. Bello. C'è la cucina. No, è che ho proprio un pranzo. Ah. È il primo aprile, per quello che mi ricordavo che era sabato. C'è cucina libanese, detto, pesce d'aprile. Pesce d'aprile. Interculturale. Mm. Bello. Sì, sì, bello. Molto bello. Mm. Molto bello. Isabelle lì ci ha conosciuto lì dopo, sì. Di quella, dopo quell'esibizione è cominciato a venire nel nostro coro e poi ha smesso perché no, c'è. Poveretta, mi ha lasciato fuori. L'avete lasciata, è vero oggi. Ma infatti come hai fatto la scelta, come hai deciso di chi veniva? È stata molto sofferente, con... è stata bruttissima. Ah, quindi hai scelto tu, non è che stavano male gli altri, hai scelto tu chi veniva stasera? Eh sì, perché non c'entravamo tutti. No, se ma questa cosa non è, no, cosa è colpa mia, è colpa, io ho di detto Stefano, portami 10. Quindi era un coro inclusivo, eh? Sì, io già so che così è diventato il coro per sempre. Per colpa basta. Di infatti. Cioè, adesso nasceranno delle zizzanie. Posso invitare l'altra metà del coro? Brava, brava. Dai, invita l'altra metà del coro. Diretto la prossima volta da Massiel. Esatto. Lunedì prossimo l'altra metà del coro. Lunedì prossimo sappiate che siete invitati e poi vi faremo paragoni per tutta la vita così. Tipo... E poi diciamo ah no, aspetta. No, vi aspettiamo all'altra metà del coro e anche a tutti i prossimi iscritti del coro di periferia. Noi forse siamo fuori orario. Siamo fuori orario, infatti buon Natale a tutti. Io ero Mia da Schio su Piei. E io ero Stefano W. Pasquini. E tu eri Maria Grazia Vincitorio con il fantastico coro di periferia. Fatevi un applauso. Grazie. Naturalmente il nostro capo comunque ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. You down when a man don't know what you can do. He wanna put you down, fight you down, but you just prove yourself. wanna set me free. I prove myself, improve myself. Let the light shine among them and you can prove yourself, improve yourself. Let your light shine among them when a man don't know your capability. He wanna put you down, fight you down when a man don't know what you can do. He wanna put you down, fight you down, but you can rise. Your heads up, your heads up, yes. They see you and don't know you. They want to overthrow you. They don't know what you're up to, so no love they show you. They see you and don't know you. They won't give you a chance to shine. You just got to let them know. So improve yourself, improve yourself. Let the light shine among them. You can prove yourself, improve yourself. Let your light shine among them when a man don't know your capability. He want to put you down, fight you down, when a man don't know what you can do. He want to put you down, fight you down, but you just prove yourself, improve yourself. Let the light shine among them, you can yourself, improve yourself. Let the light shine among them. You just prove yourself, improve yourself. Let the light shine among them. You just prove yourself, improve myself. Yourself.